suoi occhi non si stancano e tengono a bada perfino una come me. Zittisci questo panico fino a bruciare l'ultima goccia di lacrime. E per fortuna siamo due pazzi da legare. Non credo a niente senza di te. È raro ogni istante che condividiamo, anche se tre su tre litighiamo e il motivo non è mai chiaro. Ogni volta che sparo su di te ogni mio fottuto sguardo, tu ti blocchi come fossi marmo. Raro. Tagli sulle mie labbra viola, nel cuore ho una voragine da quando mi hai lasciata sola. Le notti sono pallide, ora mi viene a cercare mentre la città dorme tranquilla, non rimane il caos. Non ho niente da dire, a volte per capire non serve andare oltre un ciao. Che razza di disastro siamo, immagina la noia se fosse il contrario. Portami su, non mi servono ali se cado. È raro ogni istante che condividiamo, anche se due su tre litighiamo e il motivo non è mai chiaro. Ogni volta che sparo su di te ogni mio fottuto sguardo, tu ti blocchi come fossi marmo. Raro. Scappo come dai palazzi dove sono cresciuta, libera di fare e di sentirmi perduta. Conosce a memoria ogni cazzo di crisi e mi calmi come nessuno ha fatto mai. Raro che per poco mi buchi le mani, raro che non riesco nemmeno a svegliarmi. Vado perché in fondo è già tardi, ti chiamo, non parlo, vorrei solo dirti che è raro ogni istante che condividiamo, anche se due su tre litighiamo e il motivo non è